attenzione Sole. Sole, attento, Bacchisio. Attenzione Bacchisio. Beh, Bacchi. Giovanni, buonasera, ben entrato. Oh, ciao. Beh, sto forzato, se mi sentiamo. Ma se ti do farato, sì, vai. Giovanni, una settimana di ferie, una settimana dei giovanieri, c'avevo gli operai 3 giorni, per non dire 4 giorni, poi ho tagliato tutta la siepe che c'aveva, zero, l'ho eliminata, perché era una siepe, era bella, trattenevi, solo era un po' trascurata, mi dicevo, non avevo voglia più tagliarla, mi sono messo a casa a zero, proprio la motosega a zero, adesso devo chiamare qualcuno, come si chiama, con la palettina piccolina, per le radici, piano piano. E poi ho eliminato anche tutta la roba che c'era intacciata, dove ci ho messo la rete fragilmente, ci c'è la giovinetta, boh, basta per quest'anno, sono stanco molto, e lunedì iniziamo a lavorare nuovamente. Basta che c'è sempre da fare in casa. C'è sempre da fare in casa, per carità, non manca mai. Però, stato già a casa, tanto non si deve spostare per lavorare. Tanto c'è casa, ce la fai piano piano. Si è saldata a crescere la siepe, saldata a crescere, l'ho messa io qui 20 anni fa, ma una volta che attacca a Tecchito qua, è invadente, è arrivata un mese prima, era veramente già 20 o 30 centimetri, spuntava come un coso proprio. Alla fine guarda, mi sono trascato, l'ho fatta a zero, adesso un canna, mi avanza, ho il picciolino, prendo un po' i blocchetti e faccio il muretto, e faccio il murettino dall'ingresso dal cancello, 3 file blocchetti più copri uno e metto fino ad arrivare dove c'ho l'altro pezzo. Almeno fatto, ma con il panto che c'ho più luce, perché mi sta coprendo sempre le lampade, era sempre buio di viale, almeno c'è più luce, e dopo è mai più ordinato, dai, avanti. C'è qualcuno in FM che mi arriva quasi 9.30, 9.40, figurati. È troppo lunga, non andava bene, infatti, nel giudizio è fatto bene, è fatto a zero e si è trascorso per un po', gli altri hanno fatto, e poi siamo qui. E vabbè, perché se si sta parlando è tutto, non si è avuto, quando c'è da fare, bisogna lavorare, lasciare a parte l'appuntore del baracco, senza che fai quello che devi fare e basta, quando è tutto, e purtroppo dopo accendevo era già tardi, erano già più alle 8 logicamente, ognuno c'ha le cose sue, è giusto che chiusa chi le prende partite e così via, niente da dire, ma siamo abbiamo adesso il grosso, l'ho già fatto il grosso, adesso non dire, mettiamo la base a lavorare, adesso con calma mi cerco, anzi domenica, se c'è il genere, domani sera metto il pezzo del fraggivento con la parte, almeno ho fatto. Poi c'è una palettina piccolina che mi tocca una radice dalla siepe, perché a farla a mano non esce nella mazza, queste sono belle grosse, capito? Se io l'avrei spaccato con marabicco, ma è grosso, non vedo di va. Bene, vediamo se è entrato qualcuno, Bacchisi, attore, avanti, negativo. Ok, sento, non so se te riesco a questo, americano, non so, comunque le FM arrivano alle 40, avanti Giovanni. Bacchisi, l'ho sentito, è una 3-4 ore fa, che stava a Salento, però l'ha chiamato un amico che gli era della campagna vicino, e mi ha detto che stava andando a trovare un amico che l'aveva chiamato. Ci sentiamo dopo, ma ancora non si è sentito per niente, certamente la chiacchierata è stata un po' più lunga e poi dall'altro per l'altro magari adesso stanno a casa e magari si rinfrescherà, però la porta è aperta, sole, se pensi la bufera, davvero, se sono qui a dirlo non intendo. Già c'era ieri sera, ho acceso tardi, 2 minuti e già c'era. C'era, dopo si è allontanato, andò a prendere la signora, dopo è ritornato. Ieri sera già c'era, già. Ieri sera ho acceso un paio di minuti, ho acceso e l'ho beccato a Bacchisi e a Sole. Bene, vabbè, uno inizia a parlare con l'altro, ovviamente si trattiene qualche minuto in più, meglio così. Ti volevo dire, Giovanni, lo zanario è il marito di tuo nipote, giusto? La figlia era più grande o no, mi sbaglio? Non ho capito niente, Marita, sono troppo occupa la radio, Mi sa che parla chiaro chiaro. Ho detto già Mario che il marito di tua nipote, giusto? Ma tua figlia era più grande o la seconda? La seconda. Allora, la moglie è mia nipote, capito? Ah, ho capito, sì, mi ho fatto così. Bravo ragazzo, ho visto già lavora, anzi, magari sei contento, sei ganti. A che lavoro non devo venire un bene. Tu, grazie a Dio, già si deve fare. Già fare tutto, tipo noi, diciamo. Ehi. Già si deve fare, no? Sì, anche troppo, già va bene così. Speriamo bene, dopo aver finito, non sbaglio, questo mese, ma speriamo, lo chiamo subito. E da lui si chiama una volta, due volte, a terza sei dentro, là, diciamo. Se tutto va bene anche prima, ma speriamo il prima possibile. Ehi. Va bene, Mari, dai. Grazie che ci hanno usato, li aspettiamo, magari. Ma è grazie, magari ci sta, eventualmente, dai. La battiglia d'ore, salutami. Per quello che faccio il tempo già entro, ok? Devo chiudere per forza. Benissimo, Giovanni, non preoccupare, già rimango per ascolto. Ci sentiamo più tardi. Se caso sentiamo, a domani, se è conciso, ok? Ciao.